rassegna stampa Europa. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa europea. È stata una settimana, quella che si sta chiudendo interamente o quasi, dominata dalla tragedia nel Mediterraneo, tragedia verificatasi domenica scorsa, e per questo già lunedì le principali prime pagine dei quotidiani comunitari avevano questo dramma in apertura. Partiamo forse da quella che è stata la prima pagina più significativa, quella del quotidiano britannico The Independent, di EU's Darkest Day, il giorno più nero d'Europa, titolava tutta pagina l'Independent chiedendosi quanti ancora dovranno morire prima che i leader europei metteranno l'umanità, la condivisione soprattutto di questa accoglienza davanti alle posizioni politiche e anche alle tattiche politiche. Restiamo in Gran Bretagna, parliamo sempre di lunedì. Lunedì è una giornata chiave perché chiaramente tutti i quotidiani europei aprono, o quasi tutti aprono, su questa tragedia. Andiamo al The Guardian, che più diciamo asetticamente titola si temono centinaia di morti per l'affondamento di un peschereccio, e anche il The Guardian dice il disastro vicino alle coste libiche che porta a una chiamata all'azione contro questa crisi. E poi c'è il Daily Telegraph conservatore che dice 700 uomini e donne affogati in quello che è stato il peggiore disastro nel Mediterraneo. Financial Times, quotidiano economico della City, dedica anche in questo caso l'apertura, anche se più in piccolo, si temono 700 morti. E poi la foto di una motovedetta della Guardia Costiera che porta in salvo dei migranti. Dalla Gran Bretagna ci spostiamo alla Francia. Il titolo di Libération lunedì era veramente d'impatto in prima pagina, un'apertura a tutta pagina, Mer Morte, mare morto. Si temono 700 morti, titolava Libération, e che poneva poi la cifra delle vittime nel 2015 in meno di quattro mesi, a 1650, e diceva l'Europa deve trovare una risposta. Restiamo in Francia con Le Figaro, Réfugiés, l'Europe démunie face à la tragédie, ancora l'Europa appunto inerme di fronte a questa tragedia, apertura di Le Figaro lunedì scorso, mentre Le Parisienne titolava l'Europa deve reagire, l'Europa è messa di fronte alle proprie responsabilità col naufragio nel Mediterraneo. Dalla Francia alla Spagna con El País, che apre con una foto appunto delle ricerche di domenica scorsa in mare, orrore in Europa davanti al peggior naufragio nel Mediterraneo, e poi appunto anche le critiche per l'inefficacia europea nel rispondere all'immigrazione. Dal País, quotidiano di centrosinistra, al Mundo, quotidiano conservatore, 1000 morti in una settimana, titolava El Mundo nella sua edizione di lunedì. Infine chiudiamo con la Germania, di Tageszeitung, anche qui titolo è d'impatto perché anziché concentrarsi sulla cronaca fa già un'analisi e dice 15 volte più morti rispetto al 2014, appunto 1566 morti, titolava il Tageszeitung nei primi quattro mesi del 2015 di fronte a 108 che erano nel 2014. E vi segnalo anche a questo proposito, oggi chiaramente la nostra rassegna è praticamente quasi monotematica vista anche la portata di quella tragedia e anche la risposta che poi c'è stata in Europa. Vi segnalo un articolo del Times of Malta che è molto chiaro. Siamo responsabili di questo disastro umanitario, titolava il The Times of Malta, dicendo l'incapacità dell'Europa a dare una risposta decente all'arrivo massiccio di migranti rifugiati alle sue porte non dovrebbe sorprenderci. È il risultato della retorica anti-immigrazione e delle politiche portate avanti dai suoi dirigenti col sostegno crescente dell'opinione pubblica. Chiaramente poi da lunedì e nei giorni a seguire sono stati innumerevoli gli articoli che hanno trattato questa tragedia, partendo appunto restiamo sempre all'edizione di lunedì, ABC, quotidiano spagnolo, che chiede stabilizzate le situazioni in Libia e in Siria in modo da far diminuire questo flusso di migranti. Poi c'è la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è più critica perché dice anche l'Africa, anche i leader africani dovrebbero agire per prevenire questo esodo di massa. Dove sono le grida, dove sono in qualche modo anche le reazioni da parte dei leader africani di fronte appunto alle morti che riguardano il loro stesso continente e i loro stessi paesi, mentre Le Figaro francese chiede una nuova politica di asilo. Di questo poi si è parlato anche nel vertice che c'è stato giovedì a Bruxelles, mentre il Tagesanzeiger, che è un giornale svizzero, dice: aprite la fortezza Europa. E questo è anche una, se vogliamo, un'autocritica verso la stessa Svizzera, che chiaramente è a sua volta molto restrittiva in materia di politiche di immigrazione. Martedì invece continuiamo a parlare ovviamente del tema di questa tragedia immane che c'è stata e della reazione europea. La Libre Belgique, che è un quotidiano belga, tra le soluzioni che proponeva c'era quella di migliorare le relazioni tra Europa e Africa per quanto riguarda lo sviluppo e anche il commercio. Servono strategie più a lungo termine, scriveva la Libre Belgique, mentre Der Tagesspiegel, che è un quotidiano tedesco, proponeva di iniziare una nuova politica di immigrazione dall'Africa, favorendo anche l'immigrazione legale, soprattutto dei lavoratori qualificati di cui l'Europa ha bisogno. E poi c'è questo articolo molto di impatto della Wiener Zeitung, che è un quotidiano austriaco di Vienna, che smaschera, se vogliamo, l'ipocrisia europea, perché dice: l'Europa è un'autorità ormai sui doppi standard, perché prima si sbraccia, grida contro e piange di fronte a queste tragedie, però sono le stesse persone, se vogliamo, che poi firmano petizioni contro per la chiusura dei centri dei rifugiati. Allora chiude l'articolo con una domanda: carità cristiana, dimenticatevela, forget it. Quindi è molto critico verso i doppi standard europei questo articolo della Wiener Zeitung. C'è anche un articolo del Daily Telegraph, quotidiano conservatore britannico, che propone di fermare le imbarcazioni di rifugiati con un blocco navale, questo martedì. Poi mercoledì ancora piano piano il tema, come dire, scompare lentamente, anche perché poi chiaramente passano i giorni, però c'è ancora l'articolo del Giornal de Negocios, giornale portoghese, che attacca invece l'atteggiamento dei governi del Nord Europa, quel Nord Europa, dice il Giornal de Negocios, che guarda altrove, ha guardato troppo tempo altrove di fronte a questa tragedia immane delle migrazioni, mentre il quotidiano danese Berlingske chiede l'intervento dell'esercito per fermare le imbarcazioni e fa anche una lode delle politiche di immigrazione australiane, spesso violentemente anche criticate da parte delle Nazioni Unite, invece secondo il quotidiano danese Berlingske si sono rivelate efficaci per far diminuire il flusso di immigrati verso l'Australia. Come potete vedere, come potete anzi ascoltare, ci sono opinioni molto diverse all'interno della stampa europea rispetto a questo dramma. C'è chi attacca l'inazione europea, c'è chi invece vorrebbe un'azione ancora più restrittiva, quasi, soprattutto da parte dei giornali di centrodestra in questo caso, o del Nord Europa, molto più restrittiva nei confronti dell'immigrazione, dei flussi migratori. E arriviamo infine a venerdì, giorno dopo il vertice, il tanto atteso vertice che si è tenuto a Bruxelles proprio sull'immigrazione, vertice straordinario, e bisogna dire che alcuni quotidiani sono rimasti abbastanza delusi, no, da quello che poi è emerso. La Taz, giornale di sinistra tedesco, che titola i trafficanti non sono il vero nemico, titola. E poi soprattutto il quotidiano tedesco Der Standard, che dice: a parte la volontà di aiutare i paesi di transito, i paesi di origine, eccetera, questo vertice che si è tenuto a Bruxelles fondamentalmente non ha aggiunto nulla nella politica sui rifugiati. Quindi un articolo abbastanza critico, anche perché alla fine, al di là di triplicare risorse per Triton e per Frontex, tutta la questione, se vogliamo, della condivisione anche dei rifugiati che vengono verso l'Europa fondamentalmente non è stata toccata. Di fatto lo abbiamo detto, questa è stata una rassegna quasi monotematica, potremmo dire, proprio a causa anche della portata degli eventi, però vorremmo chiudere con un'intervista che è stata pubblicata su Politico, perché ha aperto anche la sezione europea di Bruxelles di Politico, che è un sito molto famoso invece negli Stati Uniti, e ha aperto con un'intervista al presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, che garantisce non ci sarà default in Grecia. Questa è un'intervista pubblicata lunedì, giorno del lancio di Politico, e appunto Juncker dice: escludo al 100% la Grexit o la Greek Exit. E questa è stata un po' l'assicurazione, poi vedremo anche come evolverà la crisi greca, l'assicurazione che ha fatto Jean-Claude Juncker a Politico lunedì. Era questa anche l'ultima notizia di questa nostra rassegna stampa europea. Ancora un buon sabato e un buon weekend da Sergio Nava. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.